9 in punto, la versione di Oscar. Buon giovedì 5 novembre da Oscar Giannino, che oggi insieme a voi affronterà con i nostri ospiti il tema la Fiat e Marchionne che rilanciano la Chrysler. La domanda è: ma questa Fiat è ancora italiana o oramai, visto che ha in pancia soprattutto denari del contribuente americano, è più americano che italiana? Soprattutto, ce la farà la Fiat a realizzare davvero quello che Sergio Marchionne ha annunciato ieri a Auburn Hills, al quartier generale della Chrysler? Io ricordo a tutti semplicemente che la Chrysler dei tre giganti automobilistici americani è la più scassata, è la più malandata, continua a perdere a rotta di collo, venderà a malapena 1.3 milioni di veicoli tra automobili e autocarri leggeri, furgoni, quest'anno rispetto all'obiettivo che Marchionne ha annunciato ieri, cioè di riportarla entro pochi anni, entro tre anni, a 2,4 milioni l'anno. Quindi un obiettivo pressoché miracoloso. Ha annunciato che dall'anno prossimo torna in pareggio, dal 2011 torna a fare utili. L'America, devo dire, guarda con grande rispetto agli obiettivi annunciati da Marchionne. Si capisce che Marchionne è il manager del settore dell'automotive mondiale che si può permettere di fare queste promesse per il semplice fatto che alla Fiat, che era fallita, è riuscita in due anni e mezzo a riportarla all'utile prima della crisi, e quindi tutti guardano a lui come una specie di mago della pioggia capace di fare questo e altro. Ma effettivamente, guardando il mercato americano, i dati di ottobre, la General Motors, che pure era il grande gigante che anche lui ha avuto bisogno di grandi iniezioni di cassa pubblica, bene, la General Motors in buona sostanza torna per la prima volta nel mese di ottobre a guadagnare vendite sul mese precedente. Ford, che come sappiamo non ha avuto bisogno dei denari del contribuente perché si era ristrutturata molto prima della crisi e che per questo però continua ad avere 23 miliardi di dollari di debito, Ford va benissimo, ha un utile oramai al terzo trimestre di $1 miliardo, ma Chrysler, ripeto, è in condizioni di mercato molto molto preoccupanti, vende il 7.8% delle vendite americane rispetto al 13.9% che era prima della crisi. Vedremo con i nostri ospiti se Marchionne riuscirà davvero a stupire il mondo, che lo guarda, devo riconoscere, con grande rispetto. Tutto questo avviene mentre il mondo dell'automobile internazionale è turbato, soprattutto in Europa, dallo schiaffo che General Motors, forte di nuovi risultati e del ritorno all'utile e dell'annuncio dell'inizio di restituzione dei dollari del contribuente indietro da dicembre stesso. Quindi General Motors sta uscendo non solo dal fallimento pilotato che ha interessato lei e Chrysler, ma restituirà presto i soldi. Lo schiaffo che General Motors ha annunciato proprio ieri alla Germania, alla Spagna, ai governi europei, perché non venderà più alla cordata austro-canadese russa la Opel, se la riprende, però se la riprende imponendogli una ristrutturazione durissima, e quindi i sindacati tedeschi finiscono di gioire. Il governo Merkel, appena entrato in carica, si prende questo bel ceffone, urla, grida, ma non riuscirà a ottenere che le cose tornino come prima. Un deal che secondo me era gravato da un eccesso di politica rispetto al mercato, quindi io sono ferocemente contento. Fine del mio la mia presentazione iniziale. I nostri ospiti, chi sono i nostri ospiti? Abbiamo innanzitutto con noi Luca Ciferri di Automotive News Europe. Buongiorno, grazie Ciferri. Claudio Nobis, per molti anni pilastro di tutto ciò che riguardava l'auto su Repubblica e da allora straordinario ancora osservatore per la stampa italiana, oggi scrive su Libero, cura le pagine per dell'auto per Libero, uno strepitoso collega. Buongiorno Nobis. Grazie, buongiorno. Marco Ferrante del Riformista, buongiorno Ferrante. Buongiorno. Ferrante ha dedicato un libro uscito da pochissimo a Sergio Marchionne, è un osservatore molto attento del talento, delle qualità e di tutto ciò che circonda anche Marchionne, che è un manager italiano sì, ma fino a un certo punto, mi tocca dire. E io comincerei proprio con Ferrante. Cominciamo con l'aspetto personale. La stampa americana oggi sottolinea nel non concedere troppo spazio, devo dire la verità, me ne aspettavo di più, a cominciare da Wall Street Journal, ma nel concedere comunque molta attenzione agli obiettivi di Marchionne, riserva una grande attenzione, come sempre, a lui, alle qualità di quest'uomo che in quattro mesi è riuscito a impadronirsi in qualche maniera del cuore e dell'anima di un'azienda che non ne aveva più. E tutti i giornali dicono è uno che è riuscito a motivare anche l'ultimo dei dipendenti che erano rimasti a Chrysler. Lei ci crede a questo miracolo annunciato? Ma che cosa pensa davvero che vedremo di nuovo da parte di Marchionne? Beh, Naturalmente questa è la domanda delle domande. E quello che ha fatto in Fiat da questo punto di vista è stato piuttosto incredibile, nel senso che lì c'era un problema proprio di tenuta psicologica, di motivazione psicologica. Era un'azienda ancora ricca di energie, ma con un tasso di fiducia in se stessa molto basso. E lui è riuscito a fare questa operazione sul personale anche in modo crudo, no? Anche con metodi piuttosto energici, che poi hanno dato origine a una piccola mitologia, come sempre succede in questi casi, sullo stile del manager. E secondo me la vicenda americana, nel rapporto con gli americani, lui è avvantaggiato dal fatto che sostanzialmente lui è un uomo di cultura nordamericana. È diventato un nordamericano, lui è nato in Italia, in Abruzzo, poi va a vivere in Canada da ragazzino ed è diventato sostanzialmente un nordamericano. Questo lo ha per esempio aiutato moltissimo in quella che secondo me fu la sua operazione più brillante, cioè la gestione del put con General Motors, che era una cosa veramente difficile in quella fase, portare a casa quel risultato. Lui ha questa capacità di entrare in sintonia con la sua gente, col suo popolo, è un leader, insomma, voglio dire, quindi ha quelle caratteristiche lì. Con gli americani è avvantaggiato dal fatto che lui stesso è diventato un nordamericano. Poi se riuscirà effettivamente a risanare un'azienda che, come diceva lei, è quasi disintegrata come Chrysler, e a convincere gli americani a comprare alcuni dei prodotti italiani su cui lui vuole puntare, questo è naturalmente arduo. E questo vedremo se alla fine della puntata avremo le idee più chiare. E iniziamo con Ciferri a capire proprio nel merito gli annunci che sono stati dati ieri per Chrysler, i nuovi modelli, le piattaforme condivise, la riduzione delle piattaforme. Ma direi che l'annuncio di ieri è estremamente coerente con quello che era stata la promessa al presidente Obama, cioè la Fiat ha quello che manca alla Chrysler, la Chrysler ha quello che manca alla Fiat, e per questo è un matrimonio che può funzionare. Quindi sono stati annunciati i modelli di taglia piccola e taglia media, che in buona parte, tra l'altro questa forse è la sorpresa più grossa del piano, verranno importati in America. Ieri non è stato chiarito se dall'Italia, dalla Polonia, dal Brasile, ma comunque ci sarà un import di vetture Fiat, che saranno rimarcate Dodge, Chrysler e Jeep ovviamente, ma in America. E allo stesso tempo verranno esportate dall'America delle macchine grosse per la Lancia, per l'Alfa Romeo, per la Fiat, che sono forse dal punto di vista occupazionale italiano un'apparente tristezza, perché non si produrranno in Italia, ma d'altra parte i volumi delle ammiraglie delle case italiane sono talmente bassi che o si importano costruite da un altro costruttore, o se no non si hanno i numeri per poterle fare economicamente, quindi quel segmento di mercato si regala completamente alla concorrenza. I nostri motori piccoli, Multier, che ha appena debuttato, andrà in America anche sui motori grandi, la Chrysler, anche sui 6 cilindri da 3600 cc, quindi anche un riconoscimento di una tecnologia che non è soltanto per i motori piccoli a cui siamo abituati noi europei. Direi che il piano era quello di integrare le due aziende, le due gamme, le due strutture di ricerca e sviluppo, e quanto è stato annunciato ieri è estremamente coerente. La Chrysler ce la fa o non ce la fa? Credo che due notazioni sono importanti. Prima, la Chrysler sta andando malissimo perché la gamma che vende oggi è quella che l'ha portata in fallimento, cioè questo non ce lo dobbiamo dimenticare. È un'azienda che è stata comprata 3 anni fa da un fondo di private equity che non ha investito e ha cercato di rivenderla guadagnando. Poi è arrivata la crisi globale e gli è scoppiata in mano. Quindi un'azienda senza nuovi prodotti non può che andare male. E quindi questa è la Chrysler che sarà così per, diciamo, tutto il 2010 sostanzialmente, perché i miracoli nel mondo dell'automobile non si fanno. E le 24, cioè il numero di modelli così elevato in così poco tempo, non avendo niente nella pipeline, secondo lei è credibile? Ma sì, è credibile, perché si tratta poi di una serie di derivativi, 8 sono derivativi di una piattaforma Fiat che viene passata alla Chrysler, altri 4 sono modelli che erano già nel tubo di sviluppo del proprietario precedente, quindi la quantità è, direi, abbastanza corretta, non è né troppo né poco, direi che è abbastanza normale. Contiamo che lì ci sono 4 marche, quindi in fondo poi 24 prodotti in 5 anni fanno poco più di 2 prodotti a marca l'anno, ecco, non sono una quantità enorme. Certamente. Io poi tornerò insieme a lei su questa cosa del tipo di veicoli, se non siano troppi brand, perché a me pare che la lezione americana di questa ristrutturazione è pesantissima, perché ricordo a tutti quelli che ci ascoltano, la crisi dell'auto non è una crisi da domanda solo che si abbatte, come in tutto il resto del mercato. Qui c'è una certificata sovraccapacità dell'offerta, che riguarda non solo il mercato americano, ma riguarda l'offerta in tutto il mondo, ma una sovraccapacità nell'ordine del 30%. Quindi il problema per le case produttrici è quello di ristrutturazioni severe, cioè di concentrarsi su tipi di veicoli e tecnologie che sono quelle che incontrano i bisogni, la domanda nuova, tecnologia verde più efficiente dal punto di vista propulsivo, ma una severa autoriduzione dei volumi produttivi, cioè anche degli occupati. Questo è inutile nasconderselo. Da questo punto di vista, la mia opinione è che Chrysler resti con troppi brand, troppi tipi. Può essere che io, come sempre, non capisca che Marchionne poi i miracoli li fa davvero. Io ero scettico molto all'inizio in Fiat, poi mi sono dovuto ricredere. Nobis, le chiedo un altro aspetto di questa riflessione. L'ho posto all'inizio. Dal punto di vista tecnico, analizzando la dotazione di patrimonio e di capitale tra Fiat, che ha questo 20% di Chrysler, può salire al 35%, questi sono i patti con Obama, e invece Chrysler com'è e che diventa la cosa fondamentale per arrivare ai 4 milioni che servono, 2 milioni e mezzo circa da Chrysler, 1 milione e mezzo circa da Fiat. Ma si sbaglia a dire che oggi come oggi Fiat oramai è più americana che italiana per gli equilibri di dotazione, di capitale, patrimonio rispetto al raggiungimento degli obiettivi? Non voglio con questo dire non è più italiana, chi se ne frega. Dico però, dal punto di vista dei gruppi, dei grandi gruppi mondiali, oggi lei non si troverebbe in difficoltà a dire che Chrysler è italiana piuttosto che dire che la Fiat è diventata americana? Ma è abbastanza, la situazione è sicuramente abbastanza confusa. Tecnicamente, così, almeno ieri sera abbiamo sentito tutto questo lunga trattazione organizzata magistralmente, ma naturalmente con la quantità di dati forniti non c'è stato il tempo, hanno finito alle 2 stanotte, non c'è stato neanche il tempo di entrare nel dettaglio, quindi è stato una sorta di blitz espositivo. Ora, italiana o americana? Ma secondo me è un incrocio in cui neanche loro sanno più chi sono. Sicuramente è italiana in questo momento perché ha il pallino in mano, ha il timone in mano e quindi può issare la bandiera di chi guida. Certamente la Fiat ha ottenuto Marchionne ha ottenuto un risultato brillantissimo nel vendere la sua credibilità, quindi dobbiamo stare ad ascoltarlo, da un lato la Chrysler aspetta la salvezza dai soccorsi che arrivano da Torino, è stato detto con grande chiarezza ieri, il centro operativo è Torino, la mente pensante, il materiale giusto, quel che serve, le medicine arrivano da Torino, e quindi dire che la Fiat sia più americana può essere difficile. Nello stesso tempo, dal primo giorno, da quando a inizio d'anno si diceva la Fiat compra la Chrysler, tutti i giornali titolavano in questo modo, e poi però quando uno compra di solito paga, qui invece la Fiat ha dichiarato ufficialmente che non ci mette una lira, quindi il tutto, se il cervello pensante, le medicine possono pure arrivare da Torino, una parte, dall'altra parte i quattrini arrivano da Washington, e qui si apre un altro percorso, cioè da qui in poi questo interrogativo su cui è impostata tutta la trasmissione di oggi del ce la faranno o non ce la faranno, il primo interrogativo viene proprio da questo. La Fiat non ci mette i soldi, benissimo, ci mette qualcosa che è l'equivalente, però ieri per esempio non è stato neanche chiarito in modo, probabilmente non faceva parte, non aveva intenzione di farlo, ma insomma le tecniche al di là dei modelli, delle scelte, delle tecnologie eccetera, però non è così semplice trasferire, ci vuole tempo, ci vuole organizzazione, ci vogliono tante cose che non sono state indicate. E quindi quello che colpisce appunto è come potrà andare avanti la cadenza, in buona sostanza, da 1.300.000 macchine a 2.800.000 di automobili per raggiungere il 13%, questi sono i dati che sono stati enunciati, il 13%, quindi tornare alla quota di mercato precedente, di un ipotetico mercato di 14,5 milioni di automobili in America. È una scommessa abbastanza piena di variabili, perché prevedere da adesso, con alla luce fra l'altro delle cose che vediamo, delle difficoltà, della salita insomma che deve ancora essere percorsa, che fra 5 anni il mercato americano ha raggiunto i 14 milioni e mezzo di automobili, che parallelamente la Chrysler ha raggiunto 2 milioni e 800 mila auto, il suo 13%, il tutto partendo da una situazione che è sotto zero, perché al momento la perdita è ancora, adesso l'ultimo mese, l'ultimo rilevamento, la Chrysler ha venduto 65.000 macchine, la perdita del 30% è costante, 22 mesi di crollo, per cui certamente siamo qui per operare, ma anche quando i migliori medici mettono mano a un malato estremo, a un malato non dico terminale, ma insomma a grande rischio, già immaginare il decorso di una malattia in questi termini, in questi tempi, sulla base di 5 anni, il tutto aggiungendo ancora, di qui appunto Marchione giustamente combatte lo scetticismo, noi non vogliamo essere, io non voglio essere scettico, ma certamente qualche perplessità è più che giusto nutrirla. Io sono molto d'accordo, io ricordo chi ci ascolta che il mercato americano nei momenti di picco pre-crisi arrivò quasi a sfiorare i 16 milioni di unità vendute tra automobili e light trucks. Quest'anno stiamo su poco più dei 10 milioni, quindi capite che ipotizzare il ritorno a 14 milioni non è proprio il ritorno alla situazione Florida del pre-crisi, ma insomma rispetto a 10 milioni sono 4 milioni di unità in più, quindi comunque è una proiezione sufficientemente ottimistica, cioè fatta sulla convinzione che il consumo americano da parte delle famiglie che oggi sono compresse perché devono riequilibrare l'eccesso di consumo finanziato a debito torni nel giro di 2-3 anni ai livelli precedenti della crisi. È una scommessa su Obama, di cui ieri era l'anniversario dell'elezione, proprio mentre gli americani iniziano, se ridacchio un po' io, a legnarlo sconfiggendolo nelle elezioni, avendo perso un po' di illusioni sulla capacità taumaturgica di Obama. Nella seconda parte ci occuperemo di questa semplice domanda, quindi Marchione, fra i miracoli, qual è più il rilievo della bandierina? Ci mancherebbe, io sono per il mercato. Ricordo tutti che ci sono però degli aspetti che non abbiamo ancora esaminato, tipo, ma la Fiat, che in Italia è l'azienda più aiutata dal contribuente tra i grandi gruppi che ci sia nella storia più precentenaria, chiuderà davvero gli stabilimenti in cui fare efficienza, cioè quelli del sud, Termini Imerese e Pomigliano? Questo significa se è italiana o meno. Essere italiana significa, fino a questo momento per la Fiat, essere vincolata a obiettivi che non sono di mercato, perché scompiglia i soldi del contribuente, allora di solito contratta con la politica e quindi tiene aperti degli impianti che, se il mercato dovesse decidere, andrebbero chiusi, perché agli italiani piace così. Ecco, questa è la domanda tradotta in termini concreti, non il fatto che io sono diventato un nazionalista. Sentiamo alcuni di voi ascoltatori e poi torniamo con i nostri ospiti. Iniziamo da Marcello da Roma. Prego Marcello. Buongiorno. La mia domanda è questa. Dico, io sono contentissimo se il piano di investimento e quindi l'acquisizione andrà a buon fine, ci mancherebbe. Ma mi domando se ci sono delle realtà e quindi delle opportunità per poter acquisire una fabbrica all'estero, perché chiudere i nostri impianti, perché mettere in cassa integrazione i nostri dipendenti? È solo questo, è un'incongruenza che non riesco a spiegarmi. Grazie. Bene, e questa è giusto dare la risposta. Poi sentiamo Massimo da Firenze. Sì, buongiorno dottore. Becca, dica. Dicevo che non sono d'accordo di incensare così l'amministratore delegato della Fiat, se si considera che praticamente sono stati spesi miliardi e miliardi per sostenere questa azienda che apre stabilimenti in Polonia, poi li apre in Messico per fare le 500 per il mercato americano, poi chiede ancora rottamazioni per l'anno prossimo, altrimenti chiuderà stabilimenti in Italia. Insomma, sinceramente non me la sento di... tra l'altro il fatto di dare questo tipo di incentivi all'automobile droga il mercato per altri prodotti, nel senso che se da uno stipendio di una persona viene tolto i 200-300 euro mensili per comprare una macchina che nel momento non avrebbe bisogno, di sicuro non compra altro, lei dice, quindi c'è anche chi è danneggiato con il denaro del contribuente. Bene, siamo già a due telefonate di ascoltatori che dicono troppi denari pubblici e soprattutto sì, che importa all'estero se poi si chiude in Italia. Attenzione, le produzioni non sono sostitutive, i costi non sono uguali, questo è ancora alcuni ascoltatori. Sentiamo per esempio Nicola da Napoli. Prego Nicola. Salve, io gli sms forse mi hanno anticipato. Anch'io penso che non sia molto importante sapere se la Fiat è rimasta italiana o meno. A me cosa interessa? Interessa come consumatore avere prodotti competitivi a costi accettabili. Come italiano mi interessa che i miei ingegneri, i nostri ingegneri, i nostri tecnici e i nostri operai siano in un'azienda che è competitiva. Poi se il cervello oggi sta a Torino mi va benissimo, domani potrebbe stare anche nel Kuwait, insomma, cioè, non so se sono stato chiaro. Penso che in una logica di globalizzazione la sua domanda sia in qualche modo insomma, un po' pleonastica. Grazie. Grazie Nicola, in minoranza fino a questo momento, ma i globalizzatori, grazie al cielo, si sentono su Radio 24, in minoranza per il momento. Sentiamo Fernando da Chieti, prego Fernando. Buongiorno Giannino, no, non sapendo che piega avrebbe preso la trasmissione, ecco, in pratica mi vorrei allineare con gli altri due ascoltatori precedenti. Io penso che questo qui sì sarà anche bravo, ma fino adesso i soldi ce li ha messo lo Stato italiano, ce li abbiamo messi noi, e quindi non è nemmeno chiaro poi che cosa succede in Italia con le loro fabbriche. Un'altra cosa volevo chiedere, penso che è una cosa non praticabile, ma tutti i grandi gruppi industriali a livello di automobili, questi non sanno che pesci prendere. Adesso che senso ha fare delle mega agglomerazioni di praticamente di varie fabbriche, comprare a destra e a sinistra, quando poi i soldi continuano a non metterci gli stati, come in questo caso anche l'America ci ha buttato dei soldi. Per fare poi che cosa? Cioè io non vedo tutta questa... Sta grande, certo, tornare indietro e coltivarsi il suo orticello sarà una cosa impossibile, ma fino a che punto vale la pena buttare centinaia e centinaia di miliardi, illudere gli operai come sta facendo la Fiat in Italia, e fatevi un giro in Val di Sangro alla Sevel che sta vicino a casa mia, e poi dire, bah, tanto noi abbiamo la possibilità di fare, che ti devo dire, il 15%, il 13% fra due anni, tre anni, ma questo non lo so io. Grazie Fernando, chiarissimo, quindi abbiamo tre critici che si pongono il problema appunto degli effetti in Italia rispetto a uno globalizzatore. Mi sembra che una percentuale dovessi dire che questi sono i sondaggi, più o meno secondo me così vengono fuori i sondaggi, e quindi a questi bisogna dare risposta. Cominciamo da Ferrante. Certo, l'auto è un settore in cui grandi gruppi in tutto il mondo sono, o dico, tributari dello Stato, come prima era solo la Fiat in Italia o quasi negli altri grandi mercati, e quindi questo scenario è uno scenario che cambia un po' le coordinate del gioco. Detto questo, lei cosa si aspetta per gli impianti italiani, a proposito delle conseguenze dell'italianità? Qualche cosa che dipende dall'impegno americano concomitante, oppure intanto le razionalizzazioni troppo a lungo rinviate andavano fatte comunque in Italia, cioè avevamo troppa auto e troppo indotto rispetto a quello che davvero la Fiat era in grado di mantenere sui mercati? Guardi, secondo me le ristrutturazioni sarebbero state fatte comunque e molto probabilmente saranno fatte. Io partirei dalla cosa che diceva lei prima, che mi sembra il punto centrale della questione, e cioè la sovraccapacità produttiva nel mondo, cioè in tutti i paesi che hanno stabilimenti, è valutata intorno al 30%. Significa che ovunque questa industria, che è l'industria culturalmente più complessa, l'industria delle industrie, l'industria imperiale del Novecento, questa industria si dovrà ristrutturare ovunque, e questo problema è un problema che tutti i paesi si stanno ponendo. Il caso Il caso General Motors Opel di ieri notte è questo qui sostanzialmente, cioè si discute sul fatto che General Motors si riappropria del suo braccio europeo e dice beh io forse a questo punto dovrò fare dei tagli lì in Germania perché è necessario. Pomigliano e Termini, per venire alla questione italiana, sono due stabilimenti, uno dei quali diciamo che sono collocati in situazioni ambientali difficili. Pomigliano è un posto in cui si dice che ancora oggi ogni tanto vengono fatte azioni di sabotaggio, questo è quello che si dice nel sistema industriale Fiat. Termini, come Marchionne ha detto anche con quel coraggio di chi poi sostanzialmente è poco italiano, è una realtà che non ha prodotto veramente indotto come ci si aspettava, perché questo poi è il limite di quelle operazioni in certi pezzi del Mezzogiorno. Poi il fallimento di quel tipo di interventi l'abbiamo visto in buona parte dei settori industriali in Italia. Quanto alla questione che sollevavano i radioascoltatori, che mi sembra anche quella una questione centrale nel dibattito degli ultimi anni, io credo che noi ce la prendiamo quando parliamo della centralità della Fiat nel sistema industriale, nell'attenzione della politica, eccetera, ce la prendiamo con una Fiat che non esiste più. Oggi il sostegno pubblico alla Fiat avviene attraverso sostanzialmente l'aiuto il sostegno alla rottamazione, che è un tipo di intervento su cui poi c'è un guadagno allo Stato in termini di gettito IVA, ed è un aiuto che riguarda il mercato, non riguarda soltanto la Fiat. La Fiat, ricordo, ha il 33% circa del mercato dell'auto in Italia. Ultima cosa sulla sfida di Marchionne, per tornare poi alla questione americana. Marchionne è stato molto bravo nello sfruttare una finestra che poi abbiamo scoperto essere un tempo molto più breve di quello che ci si aspettava, perché appunto poi le condizioni di mercato si sono in qualche modo riaggiustate e la crisi probabilmente è stata meno dura di quello che ci si aspettava un anno e mezzo fa. Marchionne è stato molto bravo a infilarsi in quella vicenda americana. Oggi ha davanti a sé, mi piacerebbe sapere che cosa pensa Ciferri di questo, una sfida tanto più complessa, perché negli Stati Uniti c'è un mercato dell'auto ancora sostanzialmente molto tradizionale, quindi la sfida si svolge probabilmente su settori che vanno verso l'obsolescenza. L'altro giorno si è chiuso il salone di Tokyo, i produttori giapponesi hanno presentato moltissime novità sull'ibrido, sull'elettrico, eccetera. In Europa Renault promette di portare in giro di pochi anni 4 modelli di auto elettrica sul mercato. Anche lì poi peraltro c'è un problema di mercato che non è necessariamente assistito dagli stati per garantire efficienza. Per rispondere alla sua domanda, io credo che Termini e Pomigliano sono dei problemi che viaggiano indipendentemente dal rapporto con gli impegni negli Stati Uniti. Bene, al Ciferri giriamo allora l'interrogativo su i tipi di auto. Se davvero l'impulso alle tecnologie verdi più efficienti di cui si parla da un anno si tradurrà davvero poi in domanda concreta di questo tipo una volta finiti gli incentivi, è chiaro che diventa quella la domanda se lo Stato ci mette un fracco di soldi in assegno al consumatore che quindi compra quello perché ci guadagna $5,000 o €5,000 a veicolo. La domanda è: ma il mercato americano resterà così e davvero avrà bisogno non più di mega propulsore, di mega SUV, eccetera, eccetera, o la domanda resterà più tradizionale? La Ford in Europa con 3 stabilimenti guadagna $1 miliardo l'anno, la General Motors Opel con 9 stabilimenti ne perde uno. E quindi c'è di che riflettere, per così. I numeri parlano da solo. E la seconda cosa abbastanza importante, sempre su Opel, io volevo ricordare che a novembre dell'anno scorso, quindi un anno fa, la Opel approccia al governo tedesco chiedendo dei prestiti per una ristrutturazione che prevedeva il taglio di 12.000 dipendenti dalla chiusura di uno stabilimento in Germania. La Germania, per evitare la chiusura di uno stabilimento, l'ha tirata lunga per un anno, con una cosa che se avessimo fatto noi italiani, il mondo ci rideva dietro e ci diceva di tutti i colori, pizza, mandolina, verissimo, eccetera. Per un anno, e siccome erano sotto elezioni, esattamente, c'erano elezioni, esatto, eccetera, una roba che non stava in piedi. Sono d'accordo, la pizza e mandolino oramai è di altri, noi non è che abbiamo proprio smesso di aiutarle le aziende, però gli altri oramai fanno peggio di noi, vero. Ultimo dettaglio, è italiana o un'italiana Fila Chrysler? Io facendo il ragionamento ragioniere dico attendere il 51% dei profitti della Chrysler verranno a Torino, quindi chi comanda è la Fiat e sono gli italiani. Esatto. Domanda allora sul mercato americano, il cliente americano come tutti i clienti è estremamente lento a evolvere i suoi gusti, sono degli elementi esterni che sono o la legislazione o i prezzi dei carburanti che gli fanno cambiare atteggiamento. Quando l'anno scorso la benzina è andata a $4 hanno cominciato a comprare un po', ma un po' di macchine piccole, cioè parliamo dell'1,5-2% di quota, quindi niente, ma appena la benzina è tornata a $2,5 non solo sono andate a comprare macchine grosse, ma le Prius ibride che prima si faceva la coda per averle non le voleva più nessuno. Allora il problema di fondo è l'America non ha tasse sulla benzina e si è sempre fatta forte di non avere tasse sulla benzina, il che significa che costando niente, perché noi pensiamo che la benzina costi quella che la paghiamo noi, in realtà la benzina costa circa un quinto di quella che la paghiamo noi, perché noi abbiamo un carico fiscale enorme. Allora, se ci sarà una fiscalità anche piccola sulla benzina in America che porti ad avere un prezzo un po' diverso da quello attuale, il mercato si sposterà. Se no lo spostamento sarà lentissimo, perché se... Beh, allora mi tocca dire, Ciferri, che siccome mi batto perché non ci sia la fiscalità, io non credo affatto che bisogna orientare il mercato attraverso la fiscalità, quindi così stando le cose ci dice che l'impulso al cambiamento tecnologico del consumatore sarà molto basso, perché io non credo che Obama si potrà, e i governatori degli stati con l'aria che tira un anno dopo Obama, si potranno con grande facilità permettersi di introdurre la fiscalità sulla benzina, non pensa? Devono farlo, a un certo punto dovranno, noi abbiamo imparato, serve soprattutto a rimpinguare le casse pubbliche, è stato fatto un deficit pubblico in America per uscire dalla crisi finanziaria, prima o poi questo deficit andrà ripagato. In effetti se vogliono adottare questa modalità europea non c'è dubbio, io credo che le condizioni politiche stiano cambiando più rapidamente di quanto non si creda negli Stati Uniti, cioè su questo penso che l'ammontare di debito potenziale annunciato dall'amministrazione americana dovrà essere ridotto attraverso la sua mancata adozione al Congresso, perché altrimenti questi si condannano ad andare a casa, i congressmen, questa è un po' l'aria che secondo me si inizia a sentire in America, più rapidamente mentre in quanto non si immaginasse. Nobis, vogliamo parlare un secondo ancora invece di che cosa vuol dire, perché General Motors dà questo schiaffo ai tedeschi, perché basta il ritorno all'utile che hanno fatto, hanno tagliato, hanno fatto ristrutturato davvero così tanto in America da potersi permettere di poter riprendere anche Opel sotto controllo, oppure altro aspetto della questione, forse Ford va anche meglio non solo perché aveva ristrutturato prima degli altri, ma perché aveva creduto più di General Motors, molto più di Chrysler, sulla necessità di stare in Europa e di avere dentro pezzi di tecnologia più efficiente dal punto di vista della resa termica dei motori e così via, e quindi serve stare in Europa per equilibrare meglio la propria produzione nel mondo, e anche per questo che rifilano il ceffone ai tedeschi. Qual è di queste ragioni? Ah, sicuramente cioè, è evidente quello che dicevi su Ford. Ford ha avuto la fortuna, ne abbiamo parlato anche in altra occasione, ha avuto la fortuna fra virgolette di andare in crisi prima, e quindi quando è scoppiata la bomba era molto più lucida e molto più preparata. È evidente che con il trend mondiale verso i minori consumi, tutto il capitolo ecologico eccetera, è chiaro che il prodotto europeo in questo momento è un buon antidoto, e quindi chi ce l'ha deve tenerselo stretto. Ford non ha mai immaginato di eliminare nulla dell'europeo se non la Volvo, perché era un peso che non poteva permettersi, e Mulally con grande cinismo fra virgolette, ma con grande pragmatismo, ha eliminato Jaguar, ha eliminato Land Rover, ha eliminato e stanno eliminando Volvo per potersi concentrare sul progetto Ford. Vendono Volvo ai cinesi, a chi se lo fosse persa la notizia è questa. Sì, prego, vai. Certamente. E quindi che il prodotto europeo sia fondamentale, che in Europa ci siano più possibilità, malgrado tutto, di fare margini, di recuperare i quattrini, oltre che di creare le sinergie di mercato in questo caso, perché sappiamo che la Ford porterà la Fiesta, è già previsto, la Fiesta in America, a Detroit verrà presentata contravvenendo a antiche regole di famiglia, verrà presentata la Focus prima ancora che venga presentata in Europa e così via. Quindi questo concetto del valore strategico dell'attività europea è abbastanza fuori discussione. La General Motors, di fatto, se ci pensiamo bene, ha sempre visto di cattivo occhio quel tipo di trasferimento e ha subito il ricatto finché ha pensato di doverlo subire. A questo punto, quando non siamo arrivati alla fine del percorso, ha deciso di dare il colpo di testa. Certamente l'abbiamo chiamato, tutti i giornali l'hanno definita una sorpresa, lo è stata effettivamente, ma che l'iniziativa sia sana, sempre che se la possano permettere, non c'è dubbio, perché se alla General Motors togli anche le attività europee di un'azienda che sappiamo essere tecnicamente sana, organizzata e piena di tecnologia, è un po', sarebbe l'opposto di quello che fa Fiat con Chrysler, insomma, il colmo, no? Quindi c'è poi, secondo me, anche un retroscena che non è emesso, ma Washington come la pensa realmente su questa vicenda? Obama rischia di litigare con la Merkel, però non è che li ha bacchettati, ovvero l'idea di mischiare i quattrini americani con un'azienda canadese incrociata con russa, con i russi, sottolineo russo, non mi pare che possa fare molto piacere a Washington. No, ma parliamoci chiaro, nel quadro dell'equilibrio mondiale e anche del mercato del G20 a contare, insomma, è la Cina, non certo la Russia per gli Stati Uniti, quindi da questo punto di vista non protesta perché la Ford ha Volvo ai cinesi, ma certo non si lamenta dello schiaffo rifilato ai tedeschi. Io però, se ho ancora un minuto, prego. Vorrei tornare un attimo indietro, anche così ho registrato le cose dette dagli ascoltatori. Oso un'affermazione. Da quello che si vede, Marchionne ha puntato sulla Chrysler tutte le sue carte, la sua grande scommessa, prima di tutto per salvare la Fiat. Oh, perché gli obiettivi che erano annunciati con l'inizio della crisi già secondo me non erano realizzabili di per sé. Comunque, con la crisi di sicuro non erano realizzabili e quindi la Fiat non aveva più la taglia dimensionale per vivere. Ecco. E io ho anche faccio anche un'osservazione che sicuramente alla Fiat non piacerà, ma alla Fiat non piace quasi niente quando si tratta di avanzare qualche dubbio, qualche valutazione. Il salvataggio della Chrysler per la Fiat diventa strategico e quindi i famosi numeri che non riesce a fare qui li vuole fare nel complessivo. Il sogno di Marchionne dei 6 milioni di automobili, e anche lì sono tremati i polsi quando a Francoforte Marchionne ha detto che, malgrado non sia andato in porto l'operazione con Opel, lui con la Chrysler farà comunque 6 milioni di automobili. Certamente è un'affermazione assolutamente audace. Per il momento l'obiettivo è 4 al 2014. Certo, però lui poi si spinge molto, con i milioni di automobili lui ci va veloce, lo fece in piccolo anche. La devo fermare, la conclusione è stata quindi, speriamo che ce la faccia, perché sennò comunque la Fiat non regge. La mia opinione è che se tutti ce la fanno senza denaro del contribuente è bene, quando c'è il denaro del contribuente è male, questa è la mia opinione secca, perché tanto è un'illusione, altrimenti bisogna continuare a pagare di tasca nostra perché vadano avanti, e questo secondo me è un grave errore. Ringrazio Pietro Bescapè in regia, Gloria Guerrera in redazione, ringrazio i nostri ospiti, l'appuntamento a domani. Radio 24, la passione si sente.